vecchio mondo si precipiti, la sorte già spietata, già spietata. A questo cor, nel profondo cieco mondo si precipiti la sorte, si precipiti la sorte, già spietata questo cor, già spietata si precipiti la sorte, già spietata questo cor. Vincerà amor più forte, l'amor più forte, con la età del calor. Vincerà l'amor più forte, con la età del valor. Con la età del valor. Profondo cieco mondo si precipiti la sorte, già spietata a questo cor. Nel profondo cieco mondo si precipiti la sorte, si precipiti la sorte, già spietata a questo cor. Già spietata si precipiti la sorte, già spietata questo cor.